Ora un pezzo un po' più tranquillo. I giorni che non vivi. Faccheggiamo. Su quelle pagine dipinge la mia esistenza, che spiarisce ad ogni tuo respiro. E nella tenebra di questa notte soltanto mia, il sole sorge dopo il mio risveglio e lui passa. E tu continua a vivere nell'ombra, legato al tuo passato, se torni che non vivi. Il futuro, la parola che si accorcia e spiace ad ogni tuo respiro, senza nessuna via d'uscita da una fossa che tu stessi, tu stessi voluto amare, e brucia scoppia ad ogni minima reazione. Yeah.